GR24, il sole 24 ore. Sono le 13 e 33 secondi e questa è un'edizione speciale di GR24 che dedichiamo al nuovo terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna, l'Emilia, e si è sentito in tutto il nord. E partiamo però dalla scossa che probabilmente avrete sentito se vi trovate nel nord Italia, che si è sentita dappertutto e che probabilmente ha più o meno lo stesso epicentro. Noi ci colleghiamo con Federico Taddi, come sapete, collega di Radio 24, che si trova nelle zone colpite dal terremoto, si trova nella fattispecie a Cento e mi dicono davanti all'ospedale. Allora Federico, che cosa sta succedendo? Siamo qui a Cento, sì, c'è stata una scossa alle 12.57, sono di fronte all'ospedale dove stanno cercando non tanto di evacuarlo quanto di far uscire le persone che comunque possono muoversi, e stanno allestendo nel parcheggio adiacente un campo d'emergenza, un pronto soccorso, perché la situazione qui è grave. Il centro storico è stato fortemente colpito, tante case sfollate, tante case abbandonate, i vigili del fuoco che stanno girando casa per casa proprio per far uscire le persone. Non ci sono stati crolli importanti nel centro, però è tutto molto molto fragile. Ci sono persone con i sacchi a peli, con le tende, con le valigie già, che stanno abbandonando il centro e stanno cercando appunto di allontanarsi. Bene, una persona è stata colpita questa mattina da una tegola, è stata centrata proprio all'inizio della prima scossa ed è in situazioni gravissime qui al pronto soccorso. Grazie Federico Taddia, magari torneremo a parlare con te più avanti, perché so che anche a Cento appunto comunque ci sono stati gravi danni. Come si diceva, nuova forte scossa proprio poco fa alle 12.56, è stata molto lunga, durata una trentina di secondi, riferiscono le agenzie di stampa. Scossa avvertita un po' in tutto il nord Italia, non vi parliamo da Milano, e a Milano si è sentita così come si è sentita in Veneto. Noi vediamo intanto di fare il punto su quello che è successo nel corso della mattinata e poi appena avremo nuovi aggiornamenti su questa nuova scossa di terremoto ve li daremo, e appena avremo collegamenti disponibili. Vediamo di fare il punto su cosa è successo nella mattinata da questa prima violentissima scossa arrivata poco dopo le 9 e che ha fatto, come sapete, nuove e tante vittime. Anna Marino, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sì, si susseguono le scosse di assestamento, sono 60 solo nel modenese, 6 oltre il quarto grado finora, e l'ultima appunto poco fa, che appunto abbiamo avvertito tutti. Il bilancio si aggrava, ma non è certo il numero delle vittime, non è ancora certo, ci sarebbero almeno 10 vittime, diversi feriti e dispersi. Si scava sotto le macerie di edifici e capannoni, e ricordiamo alle 9.07 la scossa, la prima, è stata di magnitudo 5.8 con epicentro fino all'Emilia, avvertita questa mattina in tutto il nord e localizzata tra Veneto appunto ed Emilia. Sentiamo Luigi Gresta, presidente dell'INGV. Per quello che riguarda la scossa di questa mattina in Emilia Romagna, è stata una forte replica di magnitudo quasi simile a quella di magnitudo 6 di domenica 20 maggio, durante il corso della sequenza delle cosiddette repliche. È una cosa non troppo comune, ma neanche assolutamente inaspettata. Diciamo, non ci ha colto di sorpresa, magari non l'aspettavamo di questo grado di magnitudo, ma magari di magnitudo qualche decimo più bassa, ma a livello di analisi delle sequenze sismiche che si verificano nell'Italia centro-settentrionale, non è raro, anzi abbastanza comune, che durante il corso della sequenza ci siano delle scosse di magnitudo simile a quella della scossa principale. Ma dal punto di vista geologico cosa sta succedendo? Dal punto di vista geologico si sta semplicemente rompendo un'intera struttura, quindi oggi si è rotto un segmento che non si era ancora rotto di una struttura grosso modo che abbiamo individuato compresa fra Modena e Ferrara. Quindi questa mattina l'ipocentro infatti è un po' più profondo, è un po' più a ovest rispetto alla sequenza principale, ma rientra nello stesso quadro, non è che c'è stata una migrazione di sismicità, semplicemente si è rotto una parte di una struttura che già si sta rompendo da 10 giorni. Ci sono legami secondo lei fra il sisma in Emilia e quello in Calabria? Allora, diciamo che le scosse in Calabria si inseriscono in un quadro di attività sismica in quella della regione, che dura da circa un anno e mezzo, quindi non è una novità, è soltanto che si è stata prestata ieri un attimo più di attenzione a quelle scosse, ma che sono fisiologiche di quella che è l'attività della confine tra Basilicata e Calabria. Allora, intanto la nuova scossa è di magnitudo superiore a 5, quella registrata dai sismografi, e come vi abbiamo detto e come forse avete sentito appunto se siete residenti nel nord Italia, molto lunga. Questo è quanto è stato rilevato proprio dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Proseguiamo con il punto di quello che è successo questa mattina, sempre con Anna Marino. Anna. Sì, Simone, appunto le vittime in dettaglio sarebbero 3 operai a San Felice nel crollo dell'azienda Meta sotto un capannone, 2 a Mirandola e 1 è stato estratto vivo dalle macerie, una vittima a Concordia, un anziano colpito da un cornicione fuori casa, invece una vittima a casa sua Finale Emilia, e 2 sarebbero, da poco appunto c'è stato l'aggiornamento, le vittime a Cavezzo. Lo ricordiamo, il paese è stato per il 75% colpito da crolli, e questo si riporta su Twitter, e appunto una di queste 2 vittime sarebbe una donna operaia nella ditta Malavasi, una vittima a Carpi dove è caduto il duomo e ha ucciso appunto il parroco, che è stata appunto la vittima, ed è morto anche il parroco di Rovereto di Novi, anche se non è chiaro se sia rimasto vittima di un crollo o di un malore. Per quanto riguarda i danni, i crolli edifici e capannoni sono segnalati a Mirandola, dove anche qui è crollato il duomo, a Medolla, a Cavezzo, e per quanto riguarda San Felice sul Panaro, località già pesantemente distrutta dal sisma del 20 maggio, anche qui ci sono stati parecchi crolli. E grazie Anna Marino per questo punto generale. Noi veniamo appunto alle singole storie, alle voci che abbiamo raccolto in questa mattinata, mentre nel frattempo arrivano ancora aggiornamenti, un'agenzia che è stata abbattuta proprio un attimo fa e che riguarda la notizia che vi abbiamo dato proprio pochi istanti fa, vi ha dato la nostra Anna Marino. A quanto appreso da fonti della Protezione Civile, non risulta morto il parroco del Duomo di Carpi nel Modenese, e questa era una notizia che era stata data in mattinata dai Vigili del Fuoco, quindi semplicemente abbiamo preso due fonti diverse, una notizia diversa, speriamo che sia esattamente come dice la Protezione Civile. Dunque, le singole storie da questo terremoto, le voci raccolte in mattinata con la nostra Valentina Furlanetto. Valentina. Sì, buongiorno a te e gli ascoltatori ancora una volta. Come dicevi, tutta la mattina che noi cerchiamo, anche con difficoltà ovviamente per i collegamenti telefonici, delle testimonianze, di cercare di capire che cosa è accaduto anche da chi era lì fisicamente. È il caso ad esempio di Rita Pacchioni, una testimone a Carpi, proprio nella città dove, nel paese dove si diceva, e per fortuna sembra smentito, che fosse morto il parroco. Sentiamo cosa ci ha detto alle 10. Siamo tutti per strada, ci sono delle persone anziane. Le scuole sono state evacuate? Oh, ma assolutamente. Ho notizie a Cavezzo che è un disastro. Hanno detto sono crollate delle palazzine, ma però erano già state evacuate. Dicevano che i capannoni delle fabbriche, molti capannoni delle fabbriche sono crollati. Adesso ce n'è un'altra forte adesso. Madonna mia. In questo momento c'è stata una scossa? Sì, in questo momento. Lo ripetiamo, questa era una testimonianza che abbiamo raccolto intorno alle 10, ma come avete sentito da Anna Marino, ci sono state almeno 60 scosse, uno sciame vero e proprio da mezzanotte. E proprio Anna Marino ha sentito Lorenzo Guagliuni, responsabile del centro operativo comunale di Medolla. Ancora presto per avere dei dati, abbiamo diversi crolli, anche di aziende, diversi dispersi, e quindi non è ancora un po' presto per avere dei dati definitivi. Quindi ci sarebbero vittime forse? Forse, non si sa ancora, Cosa state controllando? È venuto giù parte del paese, tutto? No, sono venuti giù alcuni stabilimenti produttivi, diverse case, e quindi adesso siamo con tutte le squadre fuori a verificare, a capire un attimino la situazione, insomma, stiamo intervenendo. Le persone erano ritornate tutte al lavoro, quasi tutte? Sì, quasi tutte. Quindi le aziende erano aperte e si lavorava regolarmente dopo le verifiche? Sì, esatto. E quindi gli edifici erano stati quasi tutti verificati? Una buona parte verificati, dove erano state fatte le verifiche ed erano agibili, erano rientrati. Allora, prima di ridare la linea alla nostra Valentina Furlanetto, i primi rilievi eseguiti sulla nuova scossa, quella delle 12:56, compresa tra 5.3 e 5.4 del nuovo sisma, è molto superficiale. Sempre secondo i dati preliminari, la profondità sarebbe di appena un chilometro, e come sappiamo queste sono in genere sono brutte notizie, nel senso che sono brutte notizie, appunto, più superficiale più rischi ci sono. Siamo in linea però con il sindaco di Sant'Agostino, Fabrizio Toselli. Sindaco, salve, buongiorno. Buongiorno. C'è stata un'altra brutta scossa, tra l'altro, poco fa, si è sentita parecchio? Allora, io sono qua al campo, al centro sportivo dove abbiamo allestito una tendopoli, abbiamo sentito anche qui, insomma, un'altra scossa. Sembra di durata, la percezione è stata una durata più breve rispetto a quella di stamattina, però si è sentita. Però essendo l'aria aperta, siamo qui che stiamo organizzando un po' la tendopoli, quindi sicuramente chi era nelle case l'ha avvertita molto di più. Allora, sindaco, lei ha fatto un giro, immagino, dopo la scossa forte di questa mattina. È riuscito a fare un punto e a capire com'è la situazione da voi? Ho fatto un giro immediatamente, soprattutto all'asilo nido, dove avevamo riaperto, perché insomma c'erano le condizioni di sicurezza. Per fortuna non c'è stato nessun tipo di danno neanche alla scuola, e comunque i bambini erano fuori e non c'è stato nessun tipo di pericolo. Abbiamo fatto un ulteriore giro anche sulle aziende che avevano avuto modo di ricominciare, di crolli non ce ne sono stati, adesso dovremo ricominciare a fare tutto il lavoro che avevamo quasi finito, dei sopralluoghi, delle verifiche, perché chiaramente teniamo e crediamo che comunque certe fessure, certe aperture possono essere anche aumentate, quindi c'è un po' di paura, un po' di tensione. Adesso è rimasta soprattutto quella, l'incertezza in questo momento è veramente, c'è un'incertezza di fondo. Perché non ci si fida nemmeno a rientrare nelle fabbriche, nelle case, immagino, a questo punto. C'è una paura grossa, una paura molto forte, infatti noi adesso abbiamo chiesto anche di allestire un ulteriore campo, insomma, perché prevediamo questa notte, già stiamo vedendo, sono qui e quindi si vede, insomma, che la gente sta correndo, insomma, presso queste strutture, perché comunque sì, non ci si fida. Quindi queste prossime 24 ore siamo ritornati, secondo me, un po' a 8 giorni fa, a livello proprio anche a livello psicologico, a livello di paura. Per fortuna, ripeto, qua da noi da una prima verifica non sembrano esserci ulteriori danni, insomma, se non il municipio, che è venuto un'altra parte crollata, però insomma anche a livello di vite umane dovremmo essere, non ci risulta nessuna perdita. Grazie a Fabrizio Toselli, sindaco di Sant'Agostino, per essere stato con noi. Sono le 13:17 minuti e 42 secondi, dunque proseguiamo con questa edizione speciale di GR24 dedicata agli aggiornamenti dal terremoto, e vediamo di riassumere brevemente la situazione. Al momento non è ancora chiaro in realtà il numero nemmeno delle vittime accertate, perché se fino a poco fa si pensava che fossero 11, si è appreso in realtà che il parroco di Carpi, del quale i vigili del fuoco avevano detto che fosse morto sotto il crollo di una parte del Duomo, in realtà, a quanto pare, ha riferito alla Protezione Civile, non è morto. Le vittime sarebbero comunque 10, moltissime per una scossa che ha colpito questa mattina alle 9:07, appunto, sempre in Emilia, naturalmente. Stiamo appunto raccontando le storie di questa mattinata, le voci che abbiamo raccolto, che hanno raccolto le nostre Valentina Furlanetto e Anna Marino, che da questa mattina vi stanno aggiornando su quello che è successo. Dunque, con Valentina Furlanetto ritorniamo alle storie e alle testimonianze. Valentina. Sì, come avete sentito, sono molti gli operai fra le vittime, anche fra i dispersi. Allora sentiamo proprio la testimonianza della madre di un operaio della Gambro, scampato fortunatamente al crollo della fabbrica. Noi in casa non abbiamo subito i danni, una casa in campagna sì che è crollata, ma la scossa come è stata peggio di quella dell'altra volta. So che ci sono un sacco di capannoni anche dove lavorava mio figlio, la gambro, che è crollato. Suo figlio sta bene? Sì, sì. È ritornato a casa? Sì, è tornato a casa. Ha detto che ci sono dei dispersi? No, dispersi no, c'era un ferito che è cascato davanti a lui sotto un portone, l'hanno portato via con l'altra ambulanza, ma erano usciti tutti, penso, qualche ferito, ecco, ma non niente di... Sì, niente di grave. Sì. La paura è tanta adesso. Certo, ricominciamo da capo come la settimana scorsa, saremo fuori un'altra settimana. Danni, una vittima anche a Cavezzo, si tratta di una donna operaia a un mobilificio, il comandante della Polizia Municipale di Cavezzo Michelini al microfono di Anna Marino. Brutta, è venuto giù tutto. Ci sono delle vittime? Sì, ci sono delle vittime, non so dirle quante però. State scavando tra le macerie, di quali abitazioni, anche capannoni? Le abitazioni, capannoni. Le persone sono fuori per strada? Sì, adesso sono fuori. Ecco, queste sono le voci che abbiamo raccolto questa mattina. Intanto leggo dalle agenzie che sono all'opera anche gru dell'esercito a San Felice sul Panaro per rimuovere le macerie che hanno investito 3 persone. A te, Simone. Grazie a Valentina Furlanetto, grazie a te, ad Anna Marino, appunto, che ci avete aggiornato. Avete fatto un ottimo lavoro fin da questa mattina. Nel frattempo, insomma, dal lato della situazione di strade, autostrade e treni, avete sentito poco fa gli aggiornamenti della nostra viabilità. Dice tra l'altro l'amministratore delegato delle FS, Mauro Moretti: se non ci sono altre scosse, contiamo per le 13 di riportare a regime tutte le grandi arterie. Queste però sono parole che Moretti ha detto prima della scossa delle 12.56, quindi vedremo che cosa succederà. Sta funzionando tutto il sistema ferroviario, dice Moretti, con limitazioni delle velocità su Modena-Mantova e Modena-Verona. Sul resto della rete del nord funziona tutto, ci sono solo limitazioni parziali della velocità sull'alta velocità Bologna-Milano, che va a 200 all'ora. Questo è quanto dichiarato appunto da Moretti poco fa, però nel frattempo c'è stata appunto un'altra scossa. Nel frattempo reagiscono le istituzioni e intervengono su questi temi, a partire dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ci colleghiamo con il nostro Vincenzo Miglietta per fare il punto, ascoltare anche le voci di questa mattinata. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, partiamo proprio dal Capo dello Stato. Sono convinto che supereremo presto questo momento, ha detto il Presidente della Repubblica al suo arrivo a Udine. Il Capo dello Stato ha espresso grande solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto, poi ha aggiunto: siamo dinanzi a nuove prove che io spero vengano affrontate e superate come allora lo sono state in Friuli. Quindi la denuncia di Napolitano: bisogna impegnarsi per capire come sono andate le cose e se ci siano misure preventive che potevano essere prese. Cordoglio alle vittime dal Presidente del Consiglio Mario Monti, scese in sala stampa a Palazzo Chigi a fianco del Presidente della Regione Emilia Romagna Errani. Assicuro che lo Stato farà tutto quello che deve fare, ha detto Monti. Sentiamo le sue parole. Lo Stato farà tutto quello che deve fare, che è possibile fare e nei tempi più brevi per garantire la ripresa della vita normale in questa terra così speciale, così importante, così produttiva per l'Italia. E voglio invitare tutti i cittadini delle zone colpite ad avere fiducia. L'impegno dello Stato, lo ripeto, sarà garantito perché tutto avvenga nel modo migliore e più rapidamente. Sono certo che supereremo questo momento, ha detto ancora Monti, quindi il governatore Errani: la nostra regione non sarà lasciata sola, ha detto Errani, ascoltiamo. Faremo tutto quello che dobbiamo fare per l'assistenza, per mettere in sicurezza i cittadini, e questo è il primo intervento che è già in atto in queste ore, e assicuriamo che si farà tutto ciò che si deve fare per dare alla regione tutti e al territorio, ai sindaci che stanno facendo un lavoro straordinario, alle province, per dare la certezza che si ricostruisce. Attenzione, monitoraggio costante. massimone da parte del Ministero della Salute nelle zone critiche, lo ha garantito il Ministro Balduzzi, cordoglio e mobilitazione da parte delle forze politiche, è stata sospesa la direzione del Partito Democratico, il segretario Bersani sta andando in Emilia e ha dato disposizione di mettere a disposizione proprio le strutture locali del Partito Democratico, stessa indicazione da parte di PDL ed UDC. Simone. Grazie Vincenzo Miglietta. Allora, qualche altra notizia prima di chiudere questa edizione speciale di GR24. La prima, che è stata appena battuta dalle agenzie per una evidente ragione di opportunità, si è deciso che non si giocherà Italia-Lussemburgo, è l'amichevole che era prevista questa sera a Parma. Lo ha deciso la Federcalcio d'intesa col Comune, la Prefettura e la Provincia di Parma proprio dopo il sisma che ha colpito l'Emilia. Altra notizia che arriva scusate, in questi minuti da Bologna, in via precauzionale è stata decisa l'evacuazione del Palazzo Comunale di Bologna, in Piazza Maggiore appunto, lo riferisce un comunicato. Viene preannunciata alle 14.30 una conferenza stampa nel cortile del Pozzo per spiegare tutto quanto. Tra l'altro arrivano anche notizie e informazioni importanti dalla Croce Rossa Italiana. Nelle prossime ore sui luoghi colpiti dal sisma arriveranno altri uomini e mezzi dal centro interventi emergenza di Settimo Torinese e Verona. Sono circa 200 i volontari e gli operatori della Croce Rossa impegnati nelle attività di soccorso e assistenza in seguito alla scossa di terremoto. Questo per quanto riguarda le ultime notizie che arrivano dal sisma. Come si diceva, un'ultima nota che arriva dal CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che riguarda più la parte geologica appunto di questa serie di scosse. Ieri c'è stata la riattivazione di una sequenza di scosse nella zona del Pollino. Avete sentito poco fa che il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ci parlava anche appunto delle scosse, di un'eventuale correlazione, e diceva che non c'era tra le scosse che c'erano in Calabria, cosa che ci sta preoccupando perché la magnitudo sta crescendo, dicono dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ed è tutto per questa edizione speciale di GR24 dedicata al terremoto. Anzi, l'ultima notizia ve la diamo adesso. La successione è stata una successione rapida di 3 scosse, tutte di magnitudo superiore a 5, le prime 2 delle quali nella zona di Mirandola, mentre la terza deve essere ancora localizzata, e parliamo delle 3 scosse di terremoto avvenute poco prima dell'1. Ed è tutto, un ringraziamento a Valentina Furlanetto e Anna Marino che come sapete ci hanno aggiornato per tutta la mattina su queste vicende, Alessandra Tedesco che è stata di supporto in redazione, Paolo Corleoni in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Prossimi aggiornamenti nel giornale radio delle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.